Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Oggi siamo in compagnia di Cristina Battocletti, autrice di Figlio di nessuno, un'autobiografia senza frontiere scritto insieme a Boris Pahor. È appunto la biografia dello scrittore italiano in lingua slovena che viene pubblicata ora da Rizzoli. Cristina, questo è un libro che è a metà, diciamo, fra un saggio e un romanzo, ma veramente si legge come un romanzo, è appassionante come un romanzo, ma come tutte le biografie parte proprio dall'inizio, cioè dalla descrizione della sua famiglia, dai genitori, le sorelle. Ci puoi dire, ecco, in poche parole, chi è Boris Pahor? Ecco, Boris Pahor è uno scrittore sloveno, lui ci tiene, anche se effettivamente è un italiano perché è di cittadinanza triestina, però lui è nato nel 1913, quando Trieste era ancora sotto l'impero austro-ungarico. È la sua prima autobiografia e secondo me è importante per tre motivi essenzialmente. Prima di tutto perché è la prima volta che lui parla di tutta la sua vita. Per la prima volta si concede, è un grande vecchio, uno scrittore di calibro internazionale, più volte candidato al Nobel dalla Francia e dalla Slovenia, che si concede totalmente. Poi perché la sua esistenza passa ai punti nevralgici della storia del Novecento europeo, sicuramente. E poi è importante perché c'è un aspetto emotivo. Lui, per salvarsi, è una persona con un carattere spigoloso, scostante e riservato. Questa volta, poiché all'età di 98 anni ha deciso di dare un testamento ai giovani o anche ai suoi familiari, si concede sotto l'aspetto emotivo. E tu mi dicevi prima di aver appunto sentito questo aspetto emotivo nella... Sì, assolutamente, in varie parti del libro, per esempio nella descrizione della sua permanenza nel campo di concentramento, ma anche quando si descrive la sua vita privata, quindi il rapporto con la moglie, anche con le amanti, insomma mi sembra che per la prima volta esca proprio fuori questo personaggio. Esatto, soprattutto è anche un libro in cui forse lui chiede scusa alla moglie per non essere stato un marito fedele, anche se lui dice c'era stato un patto tra di noi, che noi ci sposavamo ma mi lasciava libero, eppure lei era libero ma non ha mai approfittato di questo patto, quindi è stato un marito infedele e un padre assente, anche perché lui non c'è mai stato per i figli, non li ha mai accompagnati a scuola, tutti i sabati e domeniche era sul Carso, dove aveva una pensioncina in cui scriveva, e tutte le estati e tutte le feste comandate. Allora andiamo un po' per ordine, descriviamo insomma a grandi linee quali sono stati i punti fondamentali della vita di questo scrittore, a questo punto che definiamo sloveno, come lui preferisce essere definito. Da piccolo lui assiste ad un episodio, ad un incendio a Trieste, dove la comunità slovena era in qualche modo perseguitata. Questo evento, viene incendiato un centro culturale di Trieste, gli rimane impresso nella memoria, è stato uno dei punti cardine della sua vita. Esatto, diciamo che è il primo punto che segna la sua vita politica. Era il 13 luglio del 1920 quando i fascisti incendiano il Narodni Dom, la casa di cultura slovena. Prima di questo periodo gli sloveni avevano una vita normale, diciamo, sotto l'impero austro-ungarico, non erano riconosciuti a livello statutario, però potevano professare religione cattolica, lingua, tradizioni. Sotto il fascismo lui deve addirittura cambiare personalità, non può essere sloveno, deve essere italiano, e l'incendio, come ricordavi tu prima, è stato un punto fondamentale. Dopodiché lui non riesce più ad essere uno studente brillante come era invece nelle scuole slovene e comincia a essere bocciato in tutte le scuole, anche perché è costretto a parlare in italiano adesso, in italiano, e a pensare in italiano, ma soprattutto essere in italiano, una cosa che lui non riesce a tollerare. Quindi non riesce nemmeno a prendere il diploma del liceo, nonostante le ripetizioni continue del padre, e decide di arruolarsi addirittura, cioè di rispondere alla chiamata delle armi, fa la guerra in Libia, diventa un membro della resistenza in città, e dopodiché c'è l'esperienza della deportazione, che diciamo è quello che lo forgia di più. E qui c'è appunto tutta l'esperienza del campo di concentramento, di cui lui aveva anche parlato nel suo libro più famoso, Necropoli, che però in questo libro che avete scritto a quattro mani si ha una visione, come dire, più interiore di quell'esperienza. Esatto, probabilmente c'è una componente femminile mia e una componente completamente di estraneità a quei fatti, per cui io ero molto curiosa, gli chiedevo e ho cercato di far venire fuori quello che erano gli aspetti sentimentali, anche se uno li cancella in quel momento per poter vivere un'esperienza così totalizzante come quella della deportazione. Lui tiene soprattutto a sottolineare che era un deportato politico, cioè che diversamente da quelli che erano i deportati ebrei che finivano direttamente nei forni crematori, lui invece doveva lavorare, ha passato diversi campi, ma soprattutto ha parlato di quella che era l'esperienza umana dentro i campi di concentramento. In questo libro appunto si evince. Si racconta proprio come alla fine non c'era neanche solidarietà fra i prigionieri, si era molto egoisti, ognuno veramente pensava alla sua sopravvivenza. Esatto, e diciamo tu hai preso la parte pregnante appunto di questo capitolo. Si pensava al massimo, ci si affiliava per nazionalità, in questo caso gli sloveni, oppure per religione, e soprattutto si pensava a salvare la pelle, purtroppo, perché ci si induriva e soprattutto ci si faceva del male. Perché uno scrittore così importante, che appunto qualcuno voleva anche candidare al Nobel come Boris Pahor, decide di scrivere la sua autobiografia e chiede aiuto ad una giornalista? È andata così. Proprio per Radio 24 l'avevo fotografato e intervistato quando non era ancora famoso. Il suo successo è avvenuto nel 2008 con Necropoli, libro bellissimo che vi consiglio appunto di leggere, ma nel 2004 Radio 24, che ci dava la possibilità di andare allora a scovare quelli che erano dei talenti culturali nascosti, avevo visto un articolo su Le Monde a 5 colonne in cui diceva: questo grande scrittore triestino, poiché io sono nata e cresciuta nella zona, ho detto: ma io questo scrittore non lo conosco. Sono andata a Trieste, sono andata a intervistarlo, ho fatto 10 minuti di ritardo e lui voleva cacciarmi via, mi ha detto: lei è venuta per Magris, se ne vada via. Io a spiegargli che non era vero, che avevo soltanto trovato un incidente. Alla fine, dopo tanti anni di diciamo frequentazione reciproca, di interviste reciproche, lui ha detto: voglio farlo con te perché mi hai riconosciuto prima come scrittore e soprattutto perché sei un italiano e voglio raccontare cosa gli italiani hanno fatto a me. Ricordiamo appunto che tu sei stata una giornalista di Radio 24, adesso lavori per il domenicale del Sole 24 Ore, ma in questa, diciamo, amicizia che si è creata fra te e Boris Pahor, che cosa ti ha stupito di più? C'è qualcosa che scrivendo il libro è venuta fuori e magari non ti aspettavi? Sì, il grande rammarico per quello che non ha fatto per la sua famiglia e soprattutto come si è comportato nell'ultimo periodo con la moglie. Lui mi ha raccontato, e tra l'altro mi ha raccontato centellinando, perché fino alla fine io non ho saputo di alcuni suoi tradimenti che sono venuti fuori proprio quando stavamo per stampare il libro, per esempio con la grande attrice di Lubiana, Dusha Pokraj, che è, diciamo, l'Anna Magnani di Lubiana, o anche con una storia intensissima con questa slovena su cui Sgorlon ha fatto un libro, Gli sposi di Via Rossetti, che è stata trucidata dai comunisti. Quello che mi ha colpito è quanto lui amasse la moglie nonostante questa vita difficile, quanto lui con questo libro forse volesse chiedere in qualche modo scusa per essersi comportato da scrittore, come spesso lo sono, narcisi, egotici, e di non aver guardato all'aspetto umano. Alla fine diciamo che ha recuperato, perché lui per 2 mesi e mezzo, il periodo in cui la moglie è stata in ospedale, è andato tutti i giorni a trovarla prendendo 5 autobus all'età di 94 anni. Direi che in questo è stato esemplare e mi ha colpito questo suo aspetto molto tenero che quando lo conosci non si evince assolutamente. E infatti tutto questo libro è permeato da questo aspetto, diciamo, umano, comunque dall'aspetto emotivo di questo grande scrittore. E allora ringraziamo Cristina Battocletti, che ha scritto insieme a Boris Pahor la sua biografia Figlio di Nessuno, un'autobiografia senza frontiere, pubblicata da Rizzoli. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it. Un saluto da Alessandra Tedesco.